A una nuova puntata di Pillole di Ecologia, in particolare la puntata di aprile, la settimana giusto dopo la festa della Liberazione, il 25 aprile. Quindi, auguri ancora a tutti e a tutte, anche se come questa non è una ricorrenza, ma è un modo di vivere. Esatto. Partiamo con questa proprio apertura aulica quasi. E, niente, quella che avete appena sentito era la nostra sigla dei Gorillaz, suggerita dal buon Pika ormai mesi e mesi addietro. E niente, iniziamo con una nuova puntata. Alla fine dello scorso episodio si era detto che forse si parlava di micorrize, funghi. In realtà però non si può mai sapere cosa passa nella mente di un naturalista, in questo caso il nostro buon Dave, che è il nostro ospite fisso ormai, qua a Radio ZM, che un giorno mi ha scritto a un orario improponibile dicendo: ma sai cosa ho pensato? Che potremmo parlare di un'altra cosa, che effettivamente è un argomento piuttosto figo. Esatto. No, ci sta perché... questo argomento ci sta perché alla fine ci coinvolge abbastanza ed è anche molto interessante da studiare, da approfondire. L'argomento sono le estinzioni. E ci ho pensato un giorno perché, per qualche strano motivo, mi sono svegliato e la prima cosa che ho pensato sono state queste piante del Madagascar, che si trovano nel sud del Madagascar, e sono queste piante belle grosse con delle spine gigantesche. Il fatto è che quando i primi botanici sono arrivati lì, si sono chiesti ma che cazzo gli servono le spine, perché non c'era nessuno che mangiasse queste piante. E poi, studiando i fossili del Madagascar, hanno scoperto che c'è questo hanno trovato questi fossili di enormi lemuri. Lemuri sono come delle scimmie. Sì, beh, certo, sono... quelli del film Madagascar, mi piace esattamente loro. Esattamente loro. E ce n'erano delle versioni giganti che facevano un po' il ruolo delle mucche in Madagascar e si mangiavano queste piante. Solo che le piante sono sopravvissute mentre questi qui sono andati estinti e quindi le piante sono rimaste con queste spine enormi e nessuno da pungere. Tra l'altro... diciamo con nessun tipo di competenza a riguardo, mi viene da dire che si siano estinti a causa nostra. È abbastanza probabile. Alla fine la cosa sono sempre o cambiamenti climatici o che arriva l'uomo e tipo dopo 200 anni sparisce una specie. Ok. Ma approfondiremo proprio queste tematiche nelle prossime... Dai! Allora, no, un'altra cosa interessante, peraltro, di questo aneddoto è che queste piante adesso stanno loro faccia a faccia con un rischio di estinzione. Perché? Perché questi bradipi, no, non bradipi, questi lemuri, mangiando i frutti di queste piante, ne diffondevano i semi. Okay. Mentre invece adesso non è rimasto nessuno a diffondere i semi di queste piante. E quindi si è da qualche parte. Scusami Dave, che forse mi è venuta una reminiscenza da tipo correlati di YouTube o pagine di Wikipedia aperte in serie. Ma per caso queste piante sono quelle che hanno quei semi giganteschi? Anche? Non lo so. No, forse non sono. Non lo so. Perché mi ricordo di aver letto di queste piante che crescono in Madagascar che hanno dei semi enormi. E quindi è che appunto si diceva chi è che potrebbe mai mangiarsi dei semi del genere per spargerli in giro, ma probabilmente sto divagando. Tra una divagazione e l'altra, mi viene da chiederti quando si può dire che una specie è estinta, cioè tipo il rinoceronte bianco, che ci sono, non so, 3 esemplari o un esemplare maschio, quella può essere già definita come estinta? Già qui è una cosa abbastanza spinosa come questione, perché una specie è estinta, in teoria, una specie, ma può anche essere una popolazione o un genere, una famiglia, diventa estinta quando l'ultimo membro di questo gruppo muore. E quindi non ce ne sono più vivi, e quindi questa non può continuare ad esistere e sparisce. Tuttavia, ci sono anche altri modi di dire, tipo una specie virtualmente estinta, una specie funzionalmente estinta o geneticamente estinta, perché prima di sparire del tutto una specie raggiunge tutta una serie di stadi in cui diventa sempre più rara e quindi mano a mano ha sempre meno speranze di esistere. E diciamo che il primo stadio che viene raggiunto è quando una specie diventa funzionalmente, o anzi prima ancora localmente estinta. Ok, cioè che quella zona lì non c'è più. Esatto, per esempio, non so, gli sciacalli dorati erano sparsi ovunque e poi sono diventati localmente estinti in Italia, per esempio. Non ce n'erano più. Ok, oppure tipo i cavalli in Nord America. Esatto. Ok. Quindi nel senso spariscono in una zona, però la specie esiste ancora, può ancora continuare ad esistere. Però chiaramente, avendo perso parte delle sue popolazioni, è un passo più vicino a sparire. Certo. Poi si può dire che una specie sia funzionalmente estinta quando gli individui rimasti non sono in un numero sufficiente a svolgere quella funzione che quella specie aveva nell'ecosistema in cui si trova. Per esempio, si dice che i koala siano funzionalmente estinti in Australia. Okay. Cioè, quindi che sono, diciamo, ancora in grado di riprodursi, ma non hanno più un ruolo nell'ecosistema? Sì, non hanno un peso rilevante nell'ecosistema. E, per esempio, non lo so, appunto i koala, a quanto pare sono funzionalmente estinti, forse perché prima ce n'erano così tanti che mangiavano un sacco di foglie di eucalipto e, non so, regolavano la crescita dell'eucalipto. Ok. Adesso non è più il caso. Poi non so quale sia specificamente o specificatamente. Specificosamente non so quale sia la questione del koala, ecco. Ok. Però, ma... cioè, vai, funziona vai. L'istinto. Ok. No, niente. Ma, cioè, al di là del fatto, ad esempio, dei koala, che sono tanto carini, e che quindi se si estinguessero sarebbe brutto perché non potremmo più godere della vista di questi animali tanto carini. Esatto. Cioè, perché è un problema il fatto che una specie si estingue? Da questo punto di vista ci sono un sacco di diverse sfumature di quanto sia un peccato che una specie vada estinta. Tutti dicono le zanzare quanto ci starebbe se andassero estinte, però sarebbe un po' un problema anche quello alla fine. Però diciamo che ho pensato un attimo a che cosa va perso quando una specie va estinta. Ok. E ci sono un sacco di cose, partendo da quelle un po' più sentimentali. La prima cosa che viene perso è tutta la storia genetica di questa specie. Poi non so se sia un termine scientifico, storia genetica, però non so, noi siamo abituati a ricordarci la storia come le imprese dei grandi individui che hanno fatto le cose, però la storia è anche fatta di tutti quelli che si sono fatti in mega sbatti per sopravvivere, per far vivere i propri figli, e come certo. Sforzo non è che gli umani facciano più fatica di mamma scoiattolo che tutti i giorni si sveglia all'alba e sa che dovrà correre più veloce esatto, scoiattolo. E quindi quando va estinta una specie vanno estinti una linea di parentela che va indietro fino all'inizio della storia della Terra, quindi 4 miliardi e mezzo di anni di sbatti di stronzi che dovevano sopravvivere, di genitori che si fanno gli sbatti per sopravvivere i figli, vanno così, completamente perduti. E quindi è un peccato quando questo succede, tutto questo sforzo collettivo viene mandato a puttane perché, non lo so, appunto per avere le pellicce o perché i marinai si divertivano a sparare i dodo, oppure anche come effetto collaterale di un sistema economico malato come quello certo. Nostro. E, cioè, se tu immagini come metafora, quanto ti incazzeresti se arrivassi a casa tua e strappassi una delle piante di pomodori o di peperoncini che coltivi da qualche mese? Cioè, ti incazzi di brutto sì, perché sono di ore brutto, e ore di lavoro. Quando si estingue una specie è come se strappassi una pianta che di cui si sono presi cura per 4 miliardi e mezzo di anni, cioè è un sproporzionato, però questo è più sentimentale, diciamo. Sì. Poi si perde anche il valore della biodiversità, secondo me, perché appunto l'evoluzione e quindi anche il caso e la fortuna ha creato questa enorme varietà di forme, funzioni, dimensioni, colori, adattamenti, e che sono in tutto e per tutto un miracolo. Sì. Perché sono tutti dati da una minuscola probabilità che una cosa cambi e che venga passata per le generazioni e che per caso il primo stronzo che c'è quella mutazione non finisca investito da un'auto. Insomma, è una cosa miracolosa praticamente. E visto che è formata dal caso, ogni specie è unica e quindi è come se fosse un'opera d'arte, un dipinto certo. Unico. O pietre preziose rarissime, e quindi anche per questo hanno un valore intrinseco, che però è più difficile da quantificare, diciamo. Certo. Questi sono valori più come si dice, più affettivi, più... Sì, poi diciamo ci sono quelli più, come dire, concreti, no? Quelli più materiali, che sono anche quelli per quei quali adesso, sui quali vengono basati il valore delle specie, il valore dei programmi di protezione delle specie. E uno dei più importanti è quello appunto dell'estinzione funzionale, ovvero che quando un ecosistema perde le specie che lo compongono, perde anche di funzionalità, perché tutte queste specie hanno il loro ruolo e le loro relazioni con le altre specie. E quindi dall'esistenza di una specie all'interno della comunità beneficia tutta la comunità, e la scomparsa di questi elementi può mandare tutto a puttane il funzionamento del macchinario e va tutto certo. Rotto. È come se a Milano sparisse l'AMSA e sparisse l'ATM. Cioè Milano va, certo, si accumula un po' di spazzatura, perché ok, la gente magari può buttare via, non so, meno cose, però spazzatura, sì, sì. Però va tutto a puttane. Ma sai che a questo proposito mi viene in mente un articolo che mi è capitato di leggere qualche giorno fa sui bisonti europei che sono stati reintrodotti sui Pirenei. Sì, e praticamente questo articolo diceva che svolgono la funzione di ripulire il sottobosco da piccoli arbusti oppure rametti secchi, foglie secche, perché se le mangiano, e che la stessa cosa costa svariati milioni di euro alla Spagna ogni anno. Sì, e se quindi non lo fai poi gli incendi. Esatto. Quindi, cioè, è questo quello che viene perso quando si estingue una specie, specialmente se è una specie chiave, come i bisonti o come erano anche le mucche prima che estinguessimo anche loro, le mucche selvatiche. E quindi, esatto, c'è questa perdita di funzioni degli ecosistemi che vanno a compromettere tutta l'abitabilità anche delle regioni dove le specie vanno perdute. Certo. Un altro esempio sono per esempio i lupi, che dei quali c'è un esempio che viene sempre studiato in università, che erano stati completamente eradicati dal parco di Yellowstone in America, e come conseguenza di questo la popolazione dei cervi e delle altre prede di lupi era esplosa. Certo. Il problema è che questi, in numero così abbondante, si mangiavano tutti i germogli degli alberi, e quindi non c'era rigenerazione dei boschi. E questo ha creato enormi spazi aperti che magari sono anche belli, però sono vulnerabili molto alle alluvioni, alle frane, all'erosione in generale. E tutto questo è andato avanti finché non hanno reintrodotto i lupi a Yellowstone, e i lupi appunto mangiando, appunto i lupi sono arrivati e c'era un sacco di carne da mangiare, quindi contentissimi, sono esplosi di popolazione anche loro, e hanno ribilanciato il numero di erbivori nell'ecosistema, e quindi tutto l'ecosistema si è ribilanciato e sono tornati i boschi a Yellowstone. E anche in Italia stiamo vivendo una fase del genere, perché siamo in una fase in cui le popolazioni dei lupi stanno crescendo moltissimo, perché non ci sono stati per decenni, e appunto in loro assenza tutte le popolazioni di ungulati sono cresciute un sacco in numero, quindi tutti i cerbiatti, i daini, i cinghiali, che creano un sacco di problemi. E appunto i lupi, quando torneranno, ancora adesso non sono così numerosi da fare un impatto molto grosso, però quando saranno in un buon numero, possono regolare le popolazioni di questi animali, che è ideale. E anche le nutre, si mangiano anche le nutre. Quindi Sì, mi era capitato di vedere un video, mi sembra nella campagna intorno a Parma, di questa coppia di lupi che predava una nutria. Sì, è vero. Mi viene da dire che forse per un lupo è più appetitoso un cinghiale di una nutria, però magari è il mio punto di vista. Però alla fine, quando sei nel mezzo dei campi agricoli, magari li trovi anche i cinghiali, però magari le nutrie sono più facili. E poi, quindi niente, questo è proprio un modo di quantificare quanto una specie sia utile, dire se tu la togli quanto costa fare il servizio che questa specie offre. Questa è tutta la tematica dei servizi ecosistemici, che sono appunto l'utilità che si ha dalle specie, sì, come che gli diciamo altri, è fiori. Forse una visione un po' antropocentrica, però è sì, oggettivamente intuitiva, quantomeno. Esatto, è una persona, come si dice, una visione molto di vedere solo la funzionalità che le specie hanno, e quindi ignorando tutti gli altri valori più meno economici, meno quantificabili che una specie ha, c'è anche questo. E per finire, un altro dei, perché poi le liste sono anche lunghe, ce ne sono un sacco di motivi per cui le specie sono importanti, ma uno che secondo me ha senso, ha valore nominare, è che la maggior parte delle medicine che abbiamo, comprese le aspirine o gli antibiotici, provengono dalla natura. Per esempio l'aspirina, l'acido acetil salicilico, viene dai salici. E come cazzo si chiama? L'antibiotico, la penicillina, sì, viene dal fungo, dalla muffa penicillium, che è la muffa blu che prende le arance quando marciscono. Da quella fu estratta la penicillina e sintetizzata. E quindi, quando tu vai a distinguere delle specie, soprattutto nel caso di piante e funghi, tu vai a perdere la possibilità che magari queste specie contenevano un principio attivo che avrebbe permesso di curare, cazzo ne so, il coronavirus. E quindi... Sì, certo. C'è un costo nel perdere le specie. Soprattutto nei tempi che corrono è interessante come punto esatto. Esatto. E poi un'altra cosa, la cosa ultimissima, è che le specie servono anche per la resistenza e la resilienza, due parole che ad oggi vengono usate molto in modo interscambiabile, la resistenza e la resilienza degli ecosistemi, perché se tu hai un disastro, magari se hai 100 specie, magari 5 in questo disastro sopravvivono e riescono a ricreare un ecosistema dopo questo disastro. Ed è il motivo per cui le grandi estinzioni di massa non hanno mai spazzato via completamente la vita dalla Terra. Se però certo, perché c'erano talmente tante specie diverse che anche se la stragrande maggioranza sono sparite, comunque ce n'erano tante da riempire i buchi, diciamo. Sì, è proprio il fatto che sopravvivessero. Era cioè serve sempre che ci siano dei sopravvissuti. Però se hai poche specie, queste specie sapranno adattarsi a una più ristretta gamma di condizioni ambientali. Certo. E quindi sarei anche meno resistente alle estinzioni, che è grave. Certo. A proposito di catastrofi, diciamo, colgo la palla al balzo per lanciare la prima canzone di oggi, che è contenuta in uno, secondo me, degli album hip hop più belli del 2020, che è l'album di Busta Rhymes, Extreme Level Event 2. Ok. E la canzone è The Wrath of God. Ce l'ascoltiamo, consiglio di ascoltare tutto l'album, è un album lungo perché sono 25 tracce, ma veramente potentissimo. Ringrazio infatti il buon Gigi, anche chiamato Orso, anche chiamato Gigi Proiettili, che me l'ha vivamente consigliato, effettivamente una bomba. Quindi ci sentiamo Extreme Level Event 2, The Wrath of God di Busta Rhymes. Yo. Yo. I'm sorry. Your time has come. No, God is present today. They need to be afraid. You need to be afraid today because the God of justice is present now. That's why he said, vengeance is mine. The battle is not yours. The battle is the Lord's. And God has come. The battle is on and the plagues are coming down. And no, I'm not afraid, but you need to be. And especially when you see what's coming up, because as a man soweth, the same shall he also reap. And when you have done the evil that you've done to us, and done it to others, did you never think that there would come a day when you would have to pay for all that crap that you have done? Thomas Jefferson said it right, brother. He said, I tremble for my country when I reflect that God is just and that his justice cannot sleep forever. Well, his justice has awakened, and all over the world, the nations are turning right before our eyes. And that's why Trump is saying we gotta make America great. How? When? Again. Because she's not great today. People are not afraid. The world has taken enough of America's evil. So death is sweeter to some than continuing to live under white supremacy and under tyranny. So no, I don't care nothing about them investigating me or arresting me or even killing me. But I tell you what, I'll give you a little warning. You kill your last man when you kill Dr. King. You will not get that chance to do that to me. And if it pleases God that you do kill me right after you kill me, all of you gonna die. Because I'm not here by myself. I'm not here of myself. You can see that God must be backing me. Otherwise, where would I get the strength to say and do what I do? No, man, it's our time now. Now. God has sent me to make you all feel the wrath and cometh. I'm here to heat up and beat the street up. I'm back to punish. While Trump is present with a mouth screaming louder than trumpets, while you bow to the puppets, I'ma stand and stick around for the judgment. Use the world stage with the God crown and put it down for the public. The earth is pain with a lost pound of demonic indulgence. These devil consultants watch me swine and remind you the culprits. Kind of impulsive to expose them through rhymes that I publish. It's kind of disruptive when I talk now. Line up the subjects. I'm tired of injustice from the post politicians and judges. When you witness the abuse of power, sometimes it's seductive. Then I question God, what create a creature that is so destructive. Hold all your grudges and focus while you create expenses. Every man is free of choice, but no man is free of consequences. Hold your suggestions and listen closely. I study lessons causing rain, hail, snow, and earthquake and travel dimensions. The ground will rattle, the earth will rumble like a stampede of cattle. 1120 feet per second faster than sound travel. How many more protests? How many more marches? Zero results are so grotesque. Don't even get me started to calm my mama, she knows best. Fight for the daily departed. God is the armor, we so blessed. Zooming on the target, from a certificate of merit down to a felony. For one's actions and deeds, justice is the reward or penalty. Your pants too tight, nigga, it's been part of the plan, fool. It fucked around and made the demasculization of man cold. I appreciate my pop, never stopped to the death of me. Wasted to be men and I'll never disgrace our legacy. Fuck following trends that don't make us men is the recipe. Care for your woman, your mother, but children is necessity. In the last couple of years, you niggas look like you need therapy. Mentally, it appears as if the imbalance is chemically. Chemically, how you gonna try to stop God's work? It could never happen even after I'm back in the Lord's dirt. I'm here to present the impact of the extinction level event. Two, I'm only here to present and bring the impact of the extinction level event. Two. Kill Busta Rhymes. I saw him at the Grammys. He spoke with passion. Passion. Eccoci qui a Pillole di Ecologia, sempre su Radio ZM. Noi lo ripetiamo ogni volta che purtroppo non siamo in diretta. Normalmente a tutte le trasmissioni che vengono svolte in diretta si può partecipare scrivendo sulla chat di Telegram, Radio ZAM-chat, a cui si può... appunto scrivere, si risponde, tutte cose. C'è anche un canale Telegram che è Radio ZAM, dove ci sono tutti gli aggiornamenti su tutti i programmi, le iniziative, eccetera eccetera. Questo per dire che forse, e lo diciamo con grande entusiasmo, la prossima puntata potrebbe essere in diretta, direttamente sì, da il bunker della radio di ZAM. Esatto. Non vediamo l'ora di poterlo fare dal vivo, insomma. Esatto. Diciamo, è tutto il contrario di dal vivo è l'argomento della puntata di oggi, che sono le estinzioni. Abbiamo parlato un po' di che, come si definisce una specie estinta, perché è uno sbattimento quando una specie si estingue, al di là del era tanto carina, che peccato non poterla più vedere. E abbiamo sentito la nostra prima canzone, andiamo avanti con la nostra chiacchierata e quindi Dave ti chiedo che cosa causa le estinzioni. Abbiamo parlato dei lemuri giganti prima, dicendo molto probabilmente sono stati gli esseri umani che sono arrivati in Madagascar e li hanno seccati tutti per mangiarseli. Tendenzialmente Wikipedia. Non ho capito, Dave, scusami. Wikipedia ne parla. Ah, ok. Dei grandi... cazzo, c'erano fino al 2300 prima di oggi, fino al 300 avanti Cristo. Ma va. Eh sì. Finché non sono arrivati gli umani. Ok. Quindi potenzialmente, non so, tipo, non ho idea di chi sia vissuto di famoso prima di quell'anno. Non so, Muzio Scevola potenzialmente avrebbe potuto vedere un lemure gigante. Esatto. Ma ci sono racconti, perché c'era anche un uccello gigante, per non fare battute, c'era certo. Un... E palle, la lingua italiana è una merda. Cioè, le persone a cui... Gli ornitologi sono troppo derisi. Un volatile gigante, però non volava. Sì, cioè, è un problema di intrinseco di omofobia e... Sì, macismo. Macismo, esatto. Quindi, diciamo, no, una, beh, buona, giganti, una buona... Una leggenda di questi uccelli giganti del Madagascar. Ok. Mi sembra anche che tipo Leonardo da Vinci ne parla. Che anche loro sono stati uccisi dall'arrivo degli esseri umani. Esatto, questi uccelloni alti tipo 3 metri, 4 metri, boh, ma delle bestie enormi. Minchia, davvero enormi. Sì. Ed erano delle prelibate facili prede per... Sì, pensa a fare una frittata con le loro uova, cioè una palla da basket, che in realtà è un uovo. Vabbè, tornando a fare i seri, che cosa causa le estinzioni? Le estinzioni sono un fenomeno mega naturale, cioè se pensi ai dinosauri, nel senso quasi tutte le specie dopo un po' si estinguono, vengono certo. Sostituite da altre specie simili o diverse o così, però di solito ci sono, scompaiono per una serie di motivi. I motivi più comuni sono che appare un'altra specie che fa più o meno le stesse cose, però le fa meglio. Ok. E quindi questa specie magari ha qualche adattamento in più, non so, degli artigli migliori, si arrampica meglio sugli alberi, robe così. E quindi è più competitiva. Ok, ma un esempio? Un esempio... per esempio, se prendi i gatti... Ok. I gatti... Anzi no, meglio ancora, i cani. I cani furono introdotti in Australia... dai primi aborigeni che ci arrivarono. E questi cani erano di una genia particolare, infatti adesso si chiamano dingo, okay. E quasi hanno un aspetto molto particolare, sono arancioni, molto carini, carinissimi. Però belli feroci, me li immagino. Sì, abbastanza ruspanti, cioè sono come dei lupi di fatto. Mm-hmm. E però sono placentati, non sono animali marsupiali come tutti i mammiferi australiani. Okay. E quindi essendo placentati hanno una marcia in più, diciamo. I marsupiali sono un po' più indietro nella storia dell'evoluzione. E quindi, benché si può dire, ah no, è sbagliato, sono tutti evoluti uguali, tutti hanno avuto lo stesso tempo, c'è chi è un po' più skillato degli altri. Più efficiente, ok. Esatto, più efficace a sopravvivere. E i lupi, appunto no, i dingo erano più efficaci a sopravvivere del lupo australiano che si chiama tilacino ed era essenzialmente l'equivalente del lupo o della tigre, insomma il top. Un carnivoro. Esatto, il carnivoro in cima alla catena alimentare dei marsupiali che nel tempo è stato sostituito da questi lupi, da questi cani. E poi vabbè, al solito l'uomo gli ha dato il colpo di grazia cacciandolo, perché ovviamente era una minaccia per il bestiame, e quindi c'è stata questa sostituzione ma un'alternativa possono essere non so, tipo l'Homo sapiens rispetto a altri umanoidi. Sì, esatto, l'Homo sapiens rispetto all'uomo di Neanderthal. Quello che si pensa è che, oltre in combinazione con fattori climatici e altre cose, semplicemente era più bravo a usare le risorse del territorio e quindi nel tempo l'ha sostituito. Cioè gli mangi il terra sotto i piedi e quelli ce ne sono sempre meno finché spariscono. Questo però di solito è un processo abbastanza lento, a meno che non succeda qualcosa per cui una specie viene introdotta in un nuovo ambiente, come invece avviene adesso con le specie aliene che noi introduciamo, e quindi allora è più veloce. Però se le specie si evolvono nello stesso posto, c'è più o meno una rincorsa l'uno con l'altro e ci vuole molto più tempo. Vabbè, un'altra ragione perché una specie può estinguersi è che nasce un'altra specie di nuovo, che però invece che competere per le stesse cose, compete per mangiarsela. Cioè, a causa di questa pressione predatoria, ed è semplicemente una specie che si mangia tutta un'altra specie. Tutti gli individui di una specie si mangiano tutti gli individui dell'altra specie. Ok. E questo succede, per esempio, con i gatti. Quando i gatti vengono introdotti in ambienti dove non sono nativi, come un'altra volta l'Australia, peggio ancora la Nuova Zelanda, fanno man bassa di tutte le specie che non hanno mai visto un gatto, e i gatti sono macchine da guerra, cioè sono predatori formidabili. Ok, di tutti, diciamo, quegli animali di taglia piccola, tipo uccellini, simil topi. Uccellini, topi, piccoli mammiferi in generale, sì, i gatti ne fanno proprio man bassa. Ok. E grandi scorpacciate. E si riproducono come degli stronzi, cioè fanno tipo 300 gattini per ogni cucciolata. Certo. E l'ultimo modo in cui una specie si può estinguere è che cambia l'ambiente, sparisce l'habitat in cui vive. Okay. E questo può succedere con i cambiamenti graduali, che, come si dice, periodici, che il clima terrestre ha. Sì, tipo il mammut. Esatto, tipo i mammut, che anche lì c'è lo zampino dell'uomo, però nel senso, col clima che si riscaldava sarebbero scomparsi anche loro, perché l'habitat, la steppa in cui esistevano i mammut adesso è ridottissima. Ok. O se no con disastri naturali, quindi il tipico asteroide che distrugge i dinosauri. Ok. Oggi c'è una nuova componente. Chi siamo? Siamo noi. Gli umani sono una combo, esatto. Gli umani sono la combo di tutte queste cose che abbiamo appena detto messe insieme, perché ci mangiamo le risorse che andrebbero alle altre specie. Pensi, pescando tutto il pesce che c'è, non lasciamo più pesce agli squali, alle balene, così. E quindi facciamo competizione diretta. Però facciamo anche pressione predatoria, ancora la pesca, semplicemente stiamo cacciando tutti i pesci che ci sono. E questo è successo con... forse la maggior parte delle estinzioni che abbiamo causato sono state perché ci siamo mangiati tutta l'altra specie. Mm-hmm. O l'abbiamo sterminata e basta. Poi distruggiamo gli habitat, e adesso c'è la novità che sappiamo anche modificare il clima terrestre, e per finire abbiamo la ciliegina sulla torta che nessuno ancora riusciva a fare, che è l'inquinamento. E quindi con questa combo siamo veramente delle macchine distruttrici, tipo degli schiacciasassi per altre specie. Abbastanza, infatti hanno calcolato che i tassi di estinzione moderni sono uguali, se non più alti, di quelli di altre estinzioni di massa. Cioè siamo a livello dell'asteroide che ha ucciso i dinosauri come velocità di erosione della biodiversità. Che effettivamente, detta così, fa proprio un po' impressione. Eh sì, perché alla fine le ere glaciali erano abbastanza veloci, ma comunque periodiche, avvenivano nel corso di millenni. Sì. Qui in 100 anni è cambiato tutto ed è praticamente istantaneo. E quindi il problema è anche che normalmente le specie avrebbero anche un po' di tempo per adattarsi e più o meno sopravvivere alle cose che succedono e ai cambiamenti che si formano. Per esempio, non so, i mammut magari sarebbero migrati più a sud e con le generazioni avrebbero perso il pelo, così non avevano troppo caldo e magari sarebbero ancora in giro. Certo. Chi però può dire? Noi siamo un po' sterminati. Ok. Che altro dire? No, mi è venuto in mente prima quando dicevi che la maggior parte delle specie che sono estinte a causa nostra è perché ce le siamo mangiate, che non mi ricordo quale libro di Jared Diamond, forse Collasso era, praticamente diceva che tutti i continenti dove gli esseri umani sono arrivati dopo, quindi Oceania, non so, il Madagascar, le grandi isole e l'America, un sacco di mammiferi di grossa taglia sono spariti in contemporanea, cioè i fossili di quei mammiferi non si trovano più in contemporanea quando iniziano a trovarsi i fossili umani. Esatto, cioè una cosa è veramente evidente con in America, dove la comparsa di manufatti artificiali umani coincide più o meno con l'estinzione delle specie. Cioè, tipo in qualche centinaio di anni sparivano i mammut e queste robe qua. Ed era perché queste specie, mentre in Africa è rimasta quasi tutta la megafauna, si chiama megafauna, gli animali di grossa taglia. In Africa è rimasta quasi tutta. Quello è perché si sono evoluti insieme agli uomini e alle donne, agli esseri umani. Certo. E quindi sono, come si dice, hanno una paura fottuta degli umani, gli animali africani. Se sentono il rumore dei passi, che essendo bipedi sono molto distinguibili, scappano di solito gli umani. Per cui, cioè, non è così facile vedere i leoni. Cioè, se non ti fanno un'imboscata e ti ammazzano... Certo, tendenzialmente scappano. Se ti corri incontro dei leoni, quelli quasi scappano. E tutti gli altri... Gli elefanti cercano di ammazzarti, rinoceronti pure, mentre invece quello che si trova davanti, i primi umani che andavano in nuovi continenti, erano una fauna che non li aveva mai viste, quindi non è che scappano. Quindi potevi avvicinarti a questi uccelli giganti del Madagascar, che c'erano anche in Nuova Zelanda, come degli struzzi però giganteschi. Tu avvicinavi, gli davi una bastonata e lo ammazzavi. Così non ti serviva neanche una freccia. Era, certo, come dire, minimo sforzo, massimo risultato. Esatto. E quindi ci sono un po' di estinzioni che sono proprio andate così. Anche i dodo. I dodo erano amichevoli, nel senso non scappavano, però se la sono vista appunto con gli esseri umani. Cioè, sarebbe come i pinguini in Antartide non sono abituati agli uomini, quindi non scappano. Che vuol dire che potresti ammazzarli tutti da solo se ti porti una spada in un delirio di onnipotenza e inizi a fezzare pinguini, in poco tempo li uccidi tutti. Sì. Poveri pinguini. Esatto, ti basta un gruppo di persone con una mentalità un po' distorta o semplicemente che non sono consapevoli di quello che stanno facendo, come si può dire degli uomini preistorici. E appunto noi siamo bravissimi a estinguere le specie. Certo. Purtroppo. E ad oggi, appunto, a causare le estinzioni sono o una caccia attiva delle specie, come sta succedendo un po' per gli squali, come è successo nei secoli scorsi con, per esempio, gli avvoltoi, un po' in tutto il mondo. Semplicemente l'uomo decide che una specie non ci deve essere perché crea problemi, magari lupi che attaccano le greggi, oppure magari pensavano che anche gli avvoltoi attaccassero gli animali quando invece mangiano solo le carcasse. Però se metti una carcassa avvelenata in mezzo alle Alpi, un terzo degli avvoltoi delle Alpi la possono sentire perché non ho il fatto clamoroso, vanno tutti a mangiarla e muoiono tutti. Quindi è facilissimo estinguere certe specie. Ok. E appunto noi abbiamo millenni di allenamento. Ok. Allora, Dave, io ti direi, lancia tu la prossima canzone. Sì, la prossima canzone... Le nostre ascoltatrici. E facciamo una pausetta dopo questa fase tragica della puntata di oggi. Esatto. La traccia di oggi si chiama New World Water, è di Mos Def, del 1999. E parla del finisce l'acqua per il climate change. Ok, ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui sempre su Radio ZM, sempre su Pillole di Ecologia. Yo. E oh. There's nothing more refreshing than a clear, crisp, clean glass of water on a warm summer's day. That cool, refreshing drink. Try it with your friends. World water make the tide rise high. Come inland and make your house go by. Fools done upset the old man river. Made him carry slave ships and fed him dead niggas. Now his belly full and he about to flood something. So I'm throwing rope that ain't tied to nothing. Tell your crew use the H2 and wise amounts. This is the new world water and every drop counts. You can laugh and take it as a joke if you wanna. But it don't rain a full week some summers. And it's about to get real wild in the half. You be buying every yard just to take a fucking bath. Heads is acting wild, sipping boom, pumping dank. Competing with the next man for higher playing rank. Then I ain't got time, try to be Big Hank. Fuck a bank. I need a 20-year water tank. Cause while these knuckleheads is out here sweating their guts. Sun is sitting in the treetops, burning the woods. And as the flame from the blaze get higher and higher. They say, don't drink the water, we need it for the fire. New York is drinking it. New world. And all of California is drinking it. New world. Where you're pumping down south is drinking it. New world. Used to have minerals and zinc in it. New world. Now they say it got lead and stink in it. New world. Fluorocarbons and monoxide. Push the water table lopsided. Used to be free, now of course you will feed. Cause all things fill their loaders, they roll across the sea. Man, you gotta cook with it, bathe and clean with it. That's right. When it's hot summertime, you fiend for it. No. You gotta put it in the iron, you steaming with. That's right. It's what they dress wounds and treat diseases Shout with. It out. The rich and poor, black and white got need for That's it. Right. And everybody in the world can agree with Let this. Know. Consumption promotes health and easiness. That's Go right. too long without it on this earth and you leaving Shout it. Out. Americans wasting it on some leisure Say shit. Word. Another nation be desperately seeking Let it. Know. Bacteria washing up on they beaches. Say it. Don't drink the water so they can't wash their feet with Let it. Young babies in perpetual need these Say days. Word. Epidemics hopping up off the petri Let dish. Control centers try to play all secret Say it. Word. To avoid public panic and freaking. There are know. Places where TB is common as TB. Cause foreign based companies go and get greedy. The type of cats who pollute the whole shoreline. Have it purified and sell it for $1.25. Now the world is drinking it. Your mom's wife and baby girl is drinking it. New world. Mom's up and down south is drinking it. New world. You just water. Have to go to your sink for it. New the world. Cash register is going to chink for world. It. New world. Pearl carbons of monoxide. Got the fish looking cockeyed. Used to be free, now of course you a feed. Cause it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting your cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Said it's all about getting that cash. Money. Johnny cash. Money. Roseanne cash. Money. Give me cash. Money. Cole cash. Money. Johnny cash. Money. Roseanne cash. Money. Give me cash. Oh, rieccoci qui dopo Mos Def. Nel fuori onda, chiacchierando così, ci dicevamo quanto gloriosa, ma allo stesso tempo raccapricciante potrebbe essere l'immagine di uno che perde la testa e inizia a uccidere a colpi a fendenti di spada orde di pinguini inermi. E ci dicevamo che più o meno tutte le popolazioni umane che hanno estinto grandi popolazioni di megafauna hanno fatto così. Chico i pinguini, sì, più o meno... i bradipi. Esatto, magari quei bradipi sarebbe divertente, che sono così lenti. Esatto, è ancora più facile che con gli altri. Magari è una cosa che proprio nella testa degli esseri umani ci partirebbe se ci trovassimo in Antartide con una spada. Presi dalla noia. Esatto. Ok. Cazzate a parte. Le estinzioni in Italia. Come al solito avviciniamo la lente di ingrandimento, certo, viviamo in terre nostrane. Bravo. Vabbè, cercava la tua verve da Piero Angela. In Italia le estinzioni sono interessanti, nel senso, sono interessanti gli animali e le piante che ci sono stati in Italia, ecco. Okay. In primo luogo c'erano i dinosauri. In Italia sono stati scoperti un sacco di gruppi interi di dinosauri, di cui prima non si sapeva nulla. E molti, tipo, uno dei primi è stato sulla Grigna, un ittiosauro, quindi un dinosauro a forma di pinguino. Se ti è rimasto in testa, eh? Eh sì, è il mio sogno segreto. Esatto. I dinosauri a forma di delfino. C'erano dei dinosauri a forma di delfino e si è scoperto in Italia, mi sembra, sulla Grigna o da quelle parti lì. E quindi, vabbè, esclusi i dinosauri, che alla fine in Italia non era ancora l'Italia, era tipo sul fondale marino, in tempi più recenti, ovvero nel Pleistocene, che è l'età prima del nostro periodo geologico, che si chiama Olocene, prima c'era il Pleistocene, che sono praticamente 2 milioni di anni in cui si alternano momenti più caldi e momenti di età glaciale. Ok. Tra l'altro, gli ascoltatori che hanno seguito una delle puntate, quella sulle ere glaciali, ricorderanno perfettamente. Esatto, sanno benissimo quello di cui stiamo parlando. Poi, per chi invece se lo fosse perso, a breve sul sito di ZAM, nella sezione Radio ZM, a sua volta nella sezione Pillole di Ecologia, troverà tutti i podcast delle scorse puntate, caricati dal buon Pica, che ringraziamo in anticipo. E quindi chi se lo fosse perso può andare a risentirsela. Esatto. E vabbè, insomma, prima di queste ere glaciali o durante queste ere glaciali, che mano a mano smaltivano più o meno la biodiversità dell'emisfero nord della Terra, prima di queste ere glaciali, in Europa crescevano per esempio le sequoie, che adesso sono questi alberi bellissimi, enormi, che si trovano in Nord America, ma anche in Cina. C'è una specie di sequoia che è stata scoperta in Cina qualche secolo fa. Storia. Queste sono andate estinte per via delle ere glaciali, ma anche altre specie che adesso vengono usate come ornamentali sono state reintrodotte in Europa, erano in realtà andate estinte e sopravvissute o in Nord America o in Cina. Per esempio queste sono le magnolie, ma anche gli alberi dei tulipani, vabbè, il liriodendro. Sì, sì, ce ne sono diversi nel giardino di fronte a ZAM di liriodendri. Okay. Sono questi alberi che fanno questi bei fiori belli grossi che sembrano dei tulipani, infatti è chiamato albero dei tulipani, da un... Sì, per la... carissimo botanico. E vabbè, e poi... escluse le piante, poi vabbè ce ne sono altre, ma non ho fatto tanta ricerca. Mentre invece, come animali, in Italia c'era il leone delle caverne e l'orso delle caverne, che erano essenzialmente parenti molto stretti del moderno leone e orso, che però erano più grossi e vivevano nelle caverne, o perlomeno i resti sono stati principalmente trovati nelle caverne. Okay. E quindi i primi uomini e donne, come se i primi umani che sono arrivati in Europa avevano a che fare con questi predatori enormi e spaventosi, ma anche con ippopotami e diverse specie di mammut e di elefanti, e anche con rinoceronte lanoso. E questo in Italia. In Italia, e anche con i Neanderthal. In Italia alla fine c'erano i Neanderthal. Sì, beh, come si chiama? L'uomo di Altamura, no? Sì, esatto. Sì. E un'altra cosa ancora più interessante è che in Sicilia e Sardegna, e anche in Corsica, che alla fine è un po' come la Sardegna, dal punto di vista naturalistico, sì, si era sviluppato questo fenomeno che si chiama nanismo insulare. E per cui le specie, quando si trovano su un'isola e hanno quindi accesso a meno risorse, che gli elefanti fanno passeggiate di centinaia di chilometri, se si trovano in Sicilia o Sardegna non possono spostarsi certo. così tanto. E quindi per ottimizzare, diciamo, l'uso delle risorse, queste specie diventano sempre più piccole. C'era un elefante proprio mini, alto tipo 1,40 m, al garrese. Ok, tipo un piccolo un cavallo più o meno, come dimensione. Passo di un cavallo, come un pony, che però è un elefante. Un elefante delle dimensioni di un pony. Abbastanza pacco, sì. Anche mini ipopotami c'erano. E, ok, e anche questi sono stati... Purtroppo sono andati estinti, non si sa se siano state le glaciazioni o gli umani. E poi un'altra cosa interessante però è che hanno continuato a influenzare la cultura mediterranea fin oltre la loro estinzione. Perché, per esempio, i teschi degli elefanti hanno un buco enorme in centro, che è dove si attacca la proboscide. Sì. Questi, quando vennero trovati dagli antichi greci o dagli antichi popoli mediterranei, hanno pensato che fossero i teschi di persone gigantesche con un solo occhio, e quindi è nata così la leggenda dei ciclopi. Perché tu trovi sì, questa storia è sempre incredibile. Figo. Quanto è la mente umana di sbabbionare sulle cose, inventarsi leggende, miti e cose meravigliose del genere, quando in realtà era un teschio di elefante, pensa un po'. Esatto. Ma senti, per adesso abbiamo parlato di specie che vivevano in Italia però in tempi antichissimi. Sì. E sono abbastanza sicuro, visto lo schifo che facciamo come esseri umani, che siamo riusciti a far estinguere anche delle specie più recentemente. Purtroppo sì. Per esempio, erano andate estinte in Italia il castoro, e i castori c'erano in Italia, quelli che fanno le dighe, ma anche gli sciacalli e diverse specie di avvoltoi, okay. tra i quali il gipeto, che è l'avvoltoio secondo me più figo, è quello che c'è nelle Alpi, è sì. mega raro anche adesso, ed è praticamente arancione. Invito tutti gli ascoltatori a cercare su sì, è molto figo. Google le immagini di gipeto. Poi c'era anche l'avvoltoio monaco e il grifone, che sono entrambi due avvoltoi che si trovavano un po' in tutta Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E... Beh, poi il grifone, se non mi sbaglio, è anche tipo presente in vari stemmi sì. tipo di casate esatto. medievali, no? Esatto. E praticamente il grifone non è la figura mitologica del tipo col corpo di leone, le ali e la coda di serpente. Peccato. Per un secondo ci ho sperato. Sarebbe stata fichissima. Purtroppo no. È un tipo di avvoltoio. E l'avvoltoio monaco è andato estinto del tutto in Italia, mentre il grifone ce n'è tipo 5 o 10 che sono sopravvissuti. E questi okay. sono tutti andati estinti. Il castoro per la caccia, perché la pelliccia vale molto, lo sciacallo perché è un po' come il lupo, no? È un problema, quindi lo ammazzi. Perché ti mangia le galline, sì. mentre gli avvoltoi pensavano che si mangiassero le gregge, quindi li hanno avvelenati. E un'altra specie che è andata estinta è la foca monaca, che okay. in realtà non è andata estinta del tutto. Cioè, è la foca che si trova nel Mediterraneo, che adesso si può trovare un po' in Croazia, un po' sparsa, è molto rara. C'era anche in Italia. Okay. Un po' dappertutto, soprattutto nelle zone con le coste rocciose, e però è andata tutta estinta, un po' per le pellicce, un po' per il grasso, per la carne magari, per chi ne aveva bisogno. Okay. È stata cacciata ovunque, tranne un singolo gruppo di 20 individui che fu trovato tipo negli anni 80 in Sardegna. Porca! Sì, nel Golfo di Orosei c'era un nucleo di 10-20 foche. Che storia, ma queste foche monache come sono? Io la foca me la immagino tipo leone marino, cioè gigante. No, queste sono piccine. Okay. Allora, ce ne sono meno di 700, ho aperto la pagina di Wikipedia, non sono... Ok. Ce ne sono 700 esemplari, circa, rimasti tutto il mondo. Sì, sono pochi. Perché è del Mediterraneo, cioè solo nel Mediterraneo. È lunga dagli 80 ai 240 centimetri, quindi diventa anche bella grossa. Beh, minchia, 2,5 metri quasi. Raggiungere i 320 kg di peso. Peso? Eh sì. E vabbè, per il resto è una foca. Cioè, ok. È una foca, di fatto. E sì, è un po' sparsa. Ce ne sono tante nell'Egeo, mi sa. Cioè, dalla mappa sembra che tra Grecia e Turchia ce ne tante. E appunto in Italia ne hanno trovate 10-20 foche, poi sono diminuite, ma mai scomparse del tutto. Poi ne hanno trovata una all'isola del Giglio, sì, un po' in Toscana. E, boh, ogni tanto si trovano, diciamo. Ne hanno trovato una a Portofino. E... Ok. E adesso ci stanno apparendo... Non riesco a parlare. Ci sono 9 segnalazioni ogni anno in Puglia, in Salento, dove praticamente arrivano dalla Grecia. Dalla Grecia, e riescono a nuotare fino al Salento e un giorno, magari se vengono conservate bene, potranno ricolonizzare. Ecco, la foca monaca è localmente estinta, diciamo, okay, dalla maggior parte del territorio italiano. Però sta tornando. Confidiamo nella foca. Dai. Senti, invece prima avevi accennato al lupo, di cui abbiamo già ampiamente trattato in altre puntate, che esatto, appunto era rimasto solo in Abruzzo, giusto? Esatto, ne erano rimasti tipo 12, cioè un numero ridicolo. E poi però appunto hanno vietato di cacciarli, e quindi è diventata una specie protetta perché, cioè, non ce n'erano più. E poi con l'abbandono delle campagne i lupi hanno potuto espandersi, come abbiamo già detto prima, come si dice, c'era un sacco di cibo perché nessuno, cioè, ok, c'erano i cacciatori, però c'era anche tanta selvaggina, quindi hanno avuto, perché non c'erano altri predatori oltre all'uomo, avevano un sacco di risorse e un sacco di spazio perché la gente abbandonava le campagne, ricrescevano i boschi. E quindi il lupo, a partire dal dopoguerra, quindi anche con l'urbanizzazione, ha potuto espandersi in tutta Italia tantissimo. E adesso appunto da meno di 20 individui siamo arrivati a migliaia. E quindi big up per il lupo. Che tuttavia adesso... questo è un altro tipo di estinzione più subdola. Praticamente una specie può sparire geneticamente quando non si possono più trovare individui puri, ed è l'esempio del lupo, certo. Salta fuori l'esempio del lupo perché il lupo si ibrida coi cani randagi, quando li incontra trombano, perché alla fine sono tutti lupi, e non sono razzisti, quindi se la fanno tra cani e lupi, e come si dice, tuttavia questo va a creare problemi ai lupi, perché quando il loro DNA viene mescolato con quello dei cani domestici, può succedere che perdano alcune caratteristiche o comportamentali o anatomiche è un po' meno probabile, ma più comportamentali, che sono istintive e quindi trasmesse anche geneticamente, che li rendono più vulnerabili e meno... Okay. Meno in grado di adattarsi all'ambiente in cui vivono, cioè diventano un po' più domestici e quindi meno selvatici automaticamente, diciamo. Sì. Quindi sono, e poi viene persa, cioè cambiano anche di aspetto. Quindi l'aspetto del lupo italiano, che è una sottospecie, forse la più rara sottospecie di lupo, forse non più, però il cane lupo appenninico è diverso dagli altri lupi. E sta perdendo queste sue caratteristiche fisiche, di aspetto, che lo rendono così. Quindi ma senti, è un altro rischio di estinzione. Un certo E altre specie, oltre al lupo, che sono a rischio di estinzione in Italia? C'è l'orso. In Italia c'è l'orso, la lince anche, e entrambi sono stati cacciati di brutto perché sono dei predatori, appunto gli orsi sono anche pericolosi. Le lince più per la pelliccia, per il valore, uccidere un animale così raro e schivo. L'orso è proprio perché sono un problema, se non ci sono strategie di gestione. E l'orso è stato eliminato quasi completamente dalle Alpi. In Italia era stato eliminato forse del tutto, anzi no, ne rimanevano tipo due esemplari in Trentino, mentre invece nel resto d'Italia, fuori dalle Alpi, c'era un altro tipo di orso, l'orso marsicano, anche lui è stato sterminato da tutti gli Appennini, finché non ne sono rimaste tipo, cioè anche adesso ce ne sono penso meno di 100, che sono pochissimi e sono tutti in Abruzzo. Adesso se ne sta vedendo qualcuno in Lazio ogni tanto, qualche individuo che va a cercare nuovi territori. E quindi anche gli orsi sono stati abbastanza sterminati in Italia. Però il modo in cui si stanno riprendendo gli orsi non è come i lupi 100% naturale. L'orso marsicano sì, perché non è stato fatto nulla per aumentare la sua popolazione, perché c'è solo quelli. E quindi sta aumentando di numero in modo naturale. Ok. L'orso delle Alpi, invece, come si dice, è stato, diciamo, la sua popolazione è stata aiutata ad esistere da un progetto europeo che si chiama Progetto LIFE, in cui praticamente vengono presi individui di una specie da popolazioni, diciamo, in salute e messi in posti dove invece la specie è più rara o assente, in modo da espandere l'areale di questa specie. E quindi degli orsi sono stati portati dalla Slovenia in Trentino, ed è stato un progetto di estremo successo. Adesso ci sono tipo 100 orsi forse in Trentino, che è guzzo, al punto che iniziano ad esserci i primi problemi, perché magari ogni tanto si mangiano un po' di bestiame, non lo so. Sì. La gente ha paura. Poi c'è un'altra specie che si chiama capovaccaio, che è un avvoltoio con la testa gialla. Ok. E di questo è ridicolo, ne sono rimasti pochissimi. Ne sono rimasti 7 coppie, 14. Okay. Ed è questo avvoltoio che appunto c'ha la faccia tutta gialla, il corpo bianco, che vive in Sud Italia, Puglia, Calabria, Sicilia, ed è veramente super mega raro. Okay. Il problema è che gli sparano ancora, cioè la minaccia più grave per questa specie è la caccia di frodo. È abbastanza assurdo. Okay. Tuttavia anche per tutti questi animali sono... perché sono animali grossi e diciamo interessanti, ci sono molti progetti di ripopolazione, di protezione di queste specie. Non è lo stesso caso per invece specie meno appariscenti, meno interessanti al grande pubblico, come per esempio sono piccoli fiorellini o piante più rare che però sono un po' sconosciute, quindi c'è anche un po' una disparità, diciamo, nel trattamento delle specie in pericolo, che però può anche essere un'opportunità. E di questo possiamo parlare nel prossimo spezzone. Ok. Diciamo. C'è un ultimo anche, sono anche le aquile. Le aquile erano praticamente estinte in Italia. E... ancora perché venivano, come si dice, avvelenate per paura che si mangiassero il bestiame. E tuttavia per le aquile ci sono progetti mega seri di reintroduzione. Beh, abbastanza iconico come animale. Esatto, quindi ci sta. E poi c'è anche la questione delle specie ombrello, che appunto tratteremo dopo la prossima canzone. Ok. Lascio a te la presentazione della canzone perché è una tua scelta. Giusto per sconfessare questa cosa, la scelta è stata tipo cerchiamo delle canzoni rap, cambiamento climatico, e è venuta fuori questa canzone. Ed è l'autore è Childish Gambino, che spacca. Sì. La traccia è Feels Like Summer. Ok, 2018. Quindi sembra sempre estate, possiamo tradurla. Esatto. No, senza sempre. Sembra estate, sì. Ok, allora io ce la sentiamo e torniamo qua per l'ultimo pezzettino della nostra puntata odierna. Yeah. E oh. Bella. Questo era Childish Gambino, Feels Like Summer. Yeah, bella per Childish Gambino. Per chi si fosse connesso, connessa soltanto ora, questa è Pillole di Ecologia. Io sono Cesa e con me c'è Dave, che è, diciamo, il vero esperto del programma. Io sono soltanto il ciambraccone che lo accompagna. E niente, questa è stata una puntata tragica e che ha parlato di scomparse, in particolare scomparse di specie, puntata tutta dedicata alle estinzioni. Come al solito abbiamo fatto la nostra clessidra, che parte dal generale per arrivare allo specifico del territorio italiano, e poi adesso arriviamo a un nuovo allargamento e magari una piccola, come dire, gocciolina di speranza. Esatto, finiamola positiva. Allora, ho letto su delle rinomate riviste online, tipo Il Fattone Quotidiano, okay, o altri titoli fake tipo quello, che in Russia stanno cercando di resuscitare un mammut. Sì, esatto. Quello è uno degli esempi. In realtà il mammut, essendo estinto da qualche migliaio d'anni, ha meno senso di essere riportato in vita in confronto a specie estinte molto più recentemente. Però è un esempio di quegli sforzi che vengono fatti adesso per combattere o anche reversibilare. Ok, fare il reverse. Fare il reverse delle... Come cazzo si dice? Invertire, sì, scancellare le estinzioni. Okay, grazie l'aiuto dalla regia. Vabbè, grazie. È tardi, raga. No, esatto, ci sono un sacco di sforzi per combattere le estinzioni e i danni che stiamo facendo, ecco. E questi sono tutti sforzi encomiabili, che ovviamente non sono mai quanti dovrebbero essere fatti, però non sputiamo sul poco che abbiamo, diciamo. Bravo, finiamo. Per esempio, il poco che abbiamo c'è, in primo luogo, la protezione degli ambienti che ci sono. Questa è la prima e più importante regola di tutte. Proteggi quel che ti resta. Certo. Che praticamente abbiamo, cioè, rimasta così poca natura, nel vero senso della parola, che non abbiamo neanche idea di che cazzo sia la natura vera e propria, la quantità, l'abbondanza di vita che potrebbe esserci sulla Terra. Quando uno va a cercare le statistiche, adesso mi è venuto in mente, posso cercarle, la biomassa di mucche e polli. Ah, mi ricordo che mi avevi fatto vedere quel grafico e faceva veramente impressione. Pazzesca. Adesso la sto andando a cercare. Cioè, praticamente, se non mi ricordo male, era facendo un paragone tra il peso in non so quante migliaia di tonnellate tra i diversi animali che esistono sulla Terra. Quindi, ad esempio, si faceva il confronto, mi sembra, tra bovini in generale, ovini, e poi c'erano anche gli elefanti nella statistica. E effettivamente mi ricordo che le mucche erano una quantità esagerata proprio. Sì, è assurdo. Il 90, per quanto riguarda i mammiferi, e quindi anche le balene e gli elefanti, il 95% della massa di mammiferi sono umani e livestock, come si dice, bestiame, e animali di allevamento. Il 95%, no, quindi praticamente non è rimasto un cazzo di tutto il resto. E la cosa assurda è che, quindi, se tu provi a immaginare un mondo in cui noi non siamo il 95%, ma magari il 10%, come eravamo 50.000 anni fa, vuol dire che ci sarebbe il 90%, cioè ci sarebbero 45, no, quante cazzo di volte, 10, 20 volte più animali di quanti se ne vedono in giro, 20 volte più uccelli, 20 volte più più, sì, cioè, ci sarebbe molto più fisicamente spazio per un sacco di altri animali. Esatto, cioè ci sarebbe una quantità di stormi di piccioni enormi. O anche gli uccelli più piacevoli dei piccioni, Esatto. Stormi di... Cioè, con tutto il bene, però, di qualsiasi altro volatile, migliaia di miliardi, no, solo piccioni. Un mondo orribile. Sarebbe l'80% della biomassa in piccioni, tantissimi piccioni ovunque. No, comunque sarebbe tantissima più vita. E quindi è importante proteggere quel poco che ci rimane di grazia. Mentre invece uno dei problemi più grossi è che nei posti dove è rimasto questa natura, che non è certo l'Europa, ma sono per lo più paesi in via di sviluppo, tagliare questi boschi per prelevare legname e altre risorse è estremamente... cioè c'è un buon ritorno di investimento, diciamo. E non avendo alternative... è quello che viene fatto dalla maggior parte delle popolazioni che si trovano in prossimità di questi ambienti così naturali, perché non è accanto alle grandi città che c'hai, dove hai un sacco di opportunità, che c'hai la maggior parte, certo, della natura. La natura si trova dispersa, la gente che ci vive appresso non ha praticamente altri mezzi di sostentamento, ed è anche facilissimamente preda di multinazionali, che in realtà sono, anzi, diamo i puntini sulle i, sono, sì, le multinazionali, ma soprattutto tutti quei figli di puttana che hanno le compagnie di legno. Bravo. E anche dei vari coltivatori, le varie mega compagnie che coltivano, non so, olio di palma, queste robe qua. Fanno grasse risate a vedere le foreste abbattute. Quindi, vabbè, diciamo, il principale, diciamo, arma che possiamo avere per contrastare queste estinzioni così frequenti è la protezione degli ambienti e degli habitat in generale, no? Esatto, gli habitat, perché un altro problema è che, per esempio, in Italia adesso si parla di sostenibilità e quindi di riforestazione. L'Italia è mega piena di foreste. Gli ambienti che sono a rischio in Italia sono quelli dove non ci sono le foreste. Perché se tu le lasci fare, le foreste coprono tutto, o quasi. Mentre invece gli habitat come i pascoli o altri ambienti aperti che hanno nomi strani, anche le brughiere per esempio, adesso stanno sparendo perché esistevano quasi solo in virtù dello sforzo dei contadini che abitavano la zona e quindi sapevano quando e come tagliare il prato in modo da massimizzarne la biodiversità. O comunque magari era solo un effetto collaterale del modo in cui gestivano il campo, però i campi gestiti in un certo modo, quindi tagliando il fieno a fine estate o magari facendoci bloccare gli animali, sono delle bombe della biodiversità italiana. E questi stanno andando perduti perché non c'è più nessuno che se ne prende cura. Perché non è così, okay, remunerativo fare il formaggio con le mucche al pascolo. E vabbè. Ma invece prima hai accennato a un termine che è specie ombrello, di cui io non ho mai sentito parlare. Sì, specie ombrello è un termine forse tecnico, non so quanto, che però sono specie che sono, da un punto di vista... facilmente attraenti per le persone, per esempio i panda. Ok. Però da un altro punto di vista, proteggere queste specie e quindi preservarne l'habitat consente di proteggere un sacco di altre specie e quindi fanno un po' da ombrello, nel senso che, okay, se tu proteggi quelle stai automaticamente proteggendo tutta una comunità che si trova attorno a quelle specie. E questo facilita un sacco alcuni programmi di conservazione, perché tu dici stiamo proteggendo i giaguari e quindi ti trovi un sacco di fondi perché la gente piacciono i giaguari, ma in realtà stai proteggendo la foresta amazzonica o il Pantanal, che è un paludone che c'è in Sud America che nessuno vuole proteggere, perché nessuno ha voglia di proteggere una palude, mentre invece Certo. Soprattutto i fascisti. Bravo. Mentre invece hanno un enorme valore anche quelle. E quindi queste specie ombrello sono estremamente utili per la conservazione. E hanno fatto differenze in vari posti. Ok. E poi ci sono i programmi specifici per le singole specie. Anche loro, alla fine, per la questione che avevamo detto all'inizio di come singole specie possono essere chiavi all'interno di un ecosistema, e quindi i progetti che aiutano queste specie poi hanno ricadute ottime su tutto il resto dell'ecosistema. Ok. Per esempio questi progetti LIFE, i progetti LIFE dell'Europa, sono tutti progetti che vogliono ricostituire popolazioni naturali di specie che sono da un lato particolarmente apprezzate dal pubblico e dall'altro anche e soprattutto elementi chiave dell'ecosistema in cui si trovano. E quindi c'è il progetto LIFE degli orsi, il progetto LIFE dei lupi, il progetto LIFE delle linci e anche di diverse aquile. Questo è il caso dell'Europa. Poi sì, la stessa cosa succede un po' in tutto il mondo. Ok. E poi invece ci sono le cose che vengono messe in pratica quando una specie va estinta. E quelle sono quelle più divertenti. Perché è un po' alla Jurassic Park, no? Certo, certo. E purtroppo i dinosauri ancora non si sa come farli tornare ad esistere. Perché purtroppo il DNA sopravvive qualche migliaio di anni, non 60 milioni. Purtroppo non... Niente T-Rex che mangia il tizio che sta facendo la cacca in un water, in una casetta di legno, purtroppo. Purtroppo, neanche dalle zanzare. O perlomeno ancora non ci sono le tecnologie. Però ci sono altre alternative. In primo luogo ci sono gli animali dei quali il DNA è in nostro possesso, comunque è reperibile. E poi ci sono gli animali che invece richiedono un po' più di sforzo. E per esempio, okay, due specie che abbiamo estinto completamente allo stato naturale sono i cavalli e le mucche, ovvero i progenitori ancestrali di questi due animali sono morti tutti. In particolare per i cavalli non si sa bene quando sia successo, mi sembra, o forse sì. Mentre invece per le mucche è successo tipo nell'Ottocento, è morto l'ultimo Uro, che sì, è il nome della mucca selvatica, e così è andata estinta la specie che dalla quale abbiamo noi ottenuto le mucche. Che sarebbe un peccato enorme. Vediamo un po' se lo dice. Quando si sono estinti i cavalli. Negli anni 70. L'ultimo cavallo. Allo stato brado. Kirtag. Esatto, il cavallo selvatico si era stato trovato l'ultima volta in Mongolia e poi però è andato estinto, però prima sono riuscito a portarlo negli zoo e adesso grazie agli zoo la popolazione è aumentata di numero, è stata reintrodotta. Sempre in Mongolia? Sì. Che il cavallo nasce come animale da steppa? Sì, esatto, un animale sì, che cammina negli ambienti aperti, o corre e vive in gruppi. Ma un po' come adesso sono i cavalli in America. Ok. Però una cosa interessante è che, per esempio, in America, quando sono arrivati gli europei, i cavalli non c'erano. E quindi tutti i film con gli indiani che cavalcano i cavalli, quegli indiani l'avevano imparato da relativamente poco. Poco. Cioè, qualche secolo al massimo. E quindi, boh, vabbè, non importa. Beh, comunque i cavalli non sono una specie naturale in America per ora. Cioè, nativa dell'America. I cavalli americani sono stati estinti un po' di tempo fa. E tuttavia, sia i cavalli che le mucche, il loro DNA esiste ancora. E il loro DNA si trova nei cavalli e nelle mucche che abbiamo oggi. Certo. Perché quelli che abbiamo oggi sono mutazioni, quindi sono come delle razze particolari di delle specie originarie. E ci sono dei programmi di questa pratica che viene chiamata backbreeding, ovvero selezione all'indietro, okay, in cui cercano di selezionare i cavalli mescolando le razze che esistono oggi, che sono più antiche, e li incrociano tutti per riuscire a ottenere l'aspetto e le caratteristiche fisiche, ok, dei vecchi cavalli selvatici e delle mucche selvatiche. Per esempio, una delle razze che stanno usando per fare la mucca selvatica è la mucca chianina, che è bellissima. Sì, quelle che corna enormi, bianche, con queste corna enormi, zarrissime. Sì. Se esistessero selvatiche sarebbe fichissimo, pericoloso, però figo. Sì. Mentre invece l'ultima cosa, che secondo me è la più figa di tutte, è la de-estinzione. E questa è quella che vi hai detto del mammut. Ah, quindi non è una cazzata? No, non è una cazzata, perché il DNA si conserva per non così tanto, ma comunque abbastanza da riavere un sacco di animali che o abbiamo estinto noi, perché di tutti quegli animali abbiamo campioni nei musei che contengono ancora il loro DNA, e quindi è possibile ricostruire il DNA di una specie. Servono un sacco di tecnologie, un sacco di soldi, certo, però già al giorno d'oggi sarebbe possibile ricreare queste specie. E tu praticamente estrai il DNA dal corpo che trovi, e poi questo DNA lo devi usare per fecondare un uovo di una specie che è ancora esistente, perché è difficile creare un utero artificiale per una specie che è anche estinta, non puoi neanche studiare. Sì, certo. Quindi se tu dovessi dovessi far ricomparire i mammut, metteresti l'uovo in una femmina di elefante, che è delle dimensioni giuste, più o meno la stessa fisiologia, e quindi dovrebbe riuscire a portare il figlio. Solo che poi quello che nasce è un mammut, non un elefante. Chissà che shock per la mamma elefante, vedere questo piccolo sgorbio tutto peloso. Esatto. E questa distinzione si può fare con un sacco di animali, in realtà. Appunto, si può fare con i mammut, che è quello che stanno provando in Russia, perché hanno anche un altro progetto in Russia. Vabbè, questa è una parentesi che però è interessantissima. C'è questa specie di scienziato pazzo russo. Ok. È un ecologo che praticamente vive in Yakutia, mi sembra, cioè nel nord-est della Russia. Ok. Ha un terreno enorme nella tundra, e lui sta cercando di fare il Pleistocene Park, che è essenzialmente come un Jurassic Park, ma del Pleistocene, quindi dell'era glaciale. Madonna, che trip! E quindi ha questo recinto gigantesco, cioè centinaia, migliaia di ettari, dove sta mettendo tipo tutti gli animali che c'erano nell'era glaciale, quindi cavalli, bisonti, mucche, cervi, cioè tutti gli animali che trova che storicamente sono esistiti in quella zona li sta rimettendo. E lui spinge un sacco per estinguere i mammut. E la sua idea, tra l'altro, è che questa cosa possa preservare il permafrost. Perché, non so, posso fare questa parentesi? Prego, certo. Sai, qui su Radio ZM non ci sono censure, limitazioni, pubblicità o interruzioni di sorta, quindi sei libero di fare tutte le digressioni che vuoi. Boh, praticamente la sua idea è che il permafrost venga preservato dalla presenza di questi animali. E questa è una cosa importantissima, perché il permafrost è uno strato di suolo, quando ti trovi a nord, abbastanza nord, cioè la temperatura sotto zero quasi tutto l'anno, se non tutto l'anno, e quindi tutto il suolo è congelato. Certo. Però è congelato fino a centinaia di metri fino a sottoterra. E E questo gli dà un sacco di proprietà particolari. E un problema è che adesso, con il riscaldamento globale, un sacco di permafrost si sta sciogliendo. Il problema è che quando si scioglie inizia di fatto a marcire, perché è come se tu tenessi il cibo in freezer, certo, a meno 50 gradi per tantissimo tempo. Rimane com'è, però quando lo tiri fuori dal freezer marcisce. Sì. Lo stesso sta succedendo al permafrost, che si scongela, inizia a marcire, però nel marcire rilascia un sacco di CO2. Anche metano, immagino. Esatto, un botto di metano. E quindi è una fonte non indifferente dell'inquinamento mondiale odierno. E ci sono alcuni studi che mostrano che potenzialmente, se si sciogliesse quanto si scioglierà e fanno un po' di calcoli e vedono che in realtà è un disastro, una bomba pronta ad esplodere. Poi ci sono anche gli articoli che dicono che invece no, però è sicuramente sarà un fattore importante nel futuro. Ok. E tra l'altro, a proposito di mammut, mi sembra che una giovane mammut sia stata rinvenuta dopo lo scioglimento del permafrost, che era rimasta congelata. Ma stanno trovando un sacco di roba, perché cioè questo permafrost nell'era glaciale, in realtà, prima dell'era glaciale, era come un enorme palude anche lui, un po' un pantano, e quindi un sacco di animali rimanevano impantanati e poi sono rimasti conservati perfettamente. E quindi dentro questo permafrost stanno trovando un sacco. In primo luogo ci sono migliaia e migliaia di zanne di mammut che, se tu vai sulla costa, dove c'è praticamente una scarpata di permafrost, ci sono le zanne di mammut che escono così dal mare. E anche questa è una cosa che ci sta a cercare le immagini su Google, perché è zarrissimo. Figo. E ci trovano anche, non so, cuccioli di lupo, cuccioli di leopardo, cuccioli di tutto. Fichissimo. E vabbè, quindi il permafrost, questo scienziato lo vuole proteggere, nel senso che dice che se ci sono gli animali calpestano la neve, il freddo riesce a penetrare più in profondità, mentre invece la neve è un isolante clamoroso e quindi non scende sotto gli 0 gradi quasi, la temperatura al di sotto della neve. Mentre invece se ci sono gli animali che la calpestano, il freddo penetra e riesce a congelare un po' di più il permafrost. Che storia. Ed è quello che questo scienziato vuole dimostrare. E poi voglio dire, un passo di mammut quanto compatta di più la neve di un passo di cervo. Sì, parliamo. Esatto. E quindi è per questo che ci sta a reintrodurli. E poi altri animali interessanti che si sono estinti da poco sono, per esempio, la ritina di Steller, che è una specie carinissima, è anche chiamata la mucca di mare. È praticamente un... Okay. I dugonghi, che sono quelle specie di foche, però ciccione, bianco. Esatto, però gigantesco. Era tipo lungo 6 metri, pesava una tonnellata ed era enorme. E questa viveva lungo le coste del Nord America e dell'Oceano Pacifico. E poi un po' col cambiamento climatico si è ridotto un sacco di dimensioni ed è stata scoperta nel adesso lo trovo un attimo. Sì. Cosa sostanzialmente sono delle foche enormi. Sono dei dugonghi enormi. Okay. Però per chi non sa cos'è un dugongo, è un po' come una foca enorme, però che ha la faccia più da patatona. Un po' più cicciona, non so, perché c'hanno queste due labbra gigantesche. Cioè, andatela a cercare, ritina. R-I-T-I-N-A. E appunto fu scoperta nel 1741. Ok. Tuttavia andò estinta Ti prego, dimmi che andò estinta tipo 5 anni dopo che è stata scoperta. Sarebbe tipo l'animale più insulso della storia. Nel 1768. Vabbè, dai, quindi un ventennio. Sì, ma ci hanno messo pochissimo, esatto. Cioè, tipo, veramente 20 anni e sono riusciti a distinguerla. Uccidendola attivamente? Sì, perché ci sono dei racconti per cui praticamente veniva usata per un sacco di cose, perché gli ultimi posti dove si trovava era intorno al mare Artico, okay. Nella Russia, nella Kamchatka. E quindi lì serviva un sacco di grasso. E il grasso di questo animale potevi scioglierlo e berlo come un brodo. E non era disgustoso. Cioè, potevi berlo, era buono. E quindi ne mangiavano tantissime. E con la pelle, senza doverla lavorare, ci facevano la parte esterna delle barche. Ma barche grosse. Cioè, tu lo tagliavi, lo ripulivi... e ci foderavi una barca. E quindi è andato estinto in 20 anni, morale della storia. Era troppo un animale troppo guzzo e troppo utile. E pacioccone per sterminato degli umani. E poi è una... Tuttavia, no, esatto, la nota bella è che c'è un sacco di materiale genetico a disposizione, anche grazie allo scioglimento del permafrost, dove si trovano i resti anche di queste eritine, e questo materiale genetico può essere la base per distinguere queste specie. La cosa bella è che se tu mettessi poi l'uovo dentro un dugongo, magari riuscirebbe anche a farlo nascere. Sarebbe un po' come se un chihuahua dovesse far nascere un San Bernardo, però... Magari si riesce. Per il chihuahua, ma molto bello per tutti gli altri. Esatto. Poi magari non sarà neanche necessario, perché ci saranno, cazzo ne so, gli uteri artificiali per dugonghi. E quindi, secondo me, la nota positiva è che la nostra tecnologia, malgrado sia una condanna per alcuni versi, è anche una risorsa per altri. Per altri punti di vista. Guarda Dave, posso dire, questa frase ci ha svoltato la puntata. Incredibile. Con questa, non è proprio la chiusa, però me la vivo come se fosse una chiusa ad effetto. Eccezionale. Esatto. E niente, quindi c'è speranza, dai. Molte specie purtroppo sono estremamente a rischio di estinzione e già solo il fatto che siano arrivati a questo punto compromette il loro futuro, perché purtroppo quando muoiono la maggior parte degli individui di una specie spariscono anche tutte le varianti genetiche che questa specie può avere. Se pensi agli umani, potrebbero scomparire tutte le persone bionde, tutte le persone alte o tutte le persone basse o tutte le persone, non so, con un certo tratto, e quel tratto andrebbe perduto. Poi a noi non cambia un cazzo. Però se spariscono tutti gli animali di un certo tipo con la resistenza a questa malattia, poi la specie essendo fatta solo da quelli che sono vulnerabili a quella malattia, è più compromessa nel futuro. E così per un sacco di altre cose. E soprattutto, in virtù del climate change, del cambiamento climatico, tutte le specie che magari che hanno perduto quegli individui che geneticamente erano più in grado di sopravvivere col cambiamento climatico, adesso sono in problema. Sono in sbatti. Sì, certo. Non hanno i mezzi per sopravvivere a questo cambiamento climatico, per sopravvivere alla selezione che verrà prodotta da questo cambiamento climatico. Quindi quello è un po' un problema. Però i programmi di conservazione possono anche permettere di salvare le specie nonostante tutto. Chiaro. Però è un bel problema. Ecco. Allora, questo era l'argomento di oggi, quindi estinzioni nel mondo, estinzioni in Italia, cosa fare per prevenire o addirittura come dire, andare contro l'estinzione già avvenuta. Esatto. La prossima puntata di Pillole di Ecologia, noi vogliamo fare proprio gli scaramantici, quindi ce la buffiamo e diciamo sarà in presenza, in diretta, dalle frequenze di Radio ZM, ma non registrata. Quindi potrete anche interagire con noi tramite la nostra fantastica chat su Telegram. Bomba. Non sapevo di sta cosa. Che figo. È figo. Su Telegram c'è sia la chat, sia il canale dove, appunto, per chi non conoscesse come funziona Telegram, un canale Telegram è un come se fosse una chat di gruppo dove puoi solo ricevere messaggi e soltanto chi ha creato la chat può inviarli. Quindi okay. Il canale Telegram della radio, la redazione della radio pubblica tutti gli aggiornamenti e, diciamo, i promemoria dei vari programmi. Bomba. Minchia, speriamo di riuscire. Sarebbe bellissimo. Sì. Chiuderei con una delle mie battute orribili che mi è venuta in mente prima. Che è questa. Come si chiama, anzi è più un indovinello, come si chiama l'antenato della mucca che viveva nell'odierna Germania? Come si chiamava? È il famoso Uro di Berlino. Esatto. E va bene. Forse è proprio lo zoo di Berlino che è morto l'ultimo. Visto. Uro. Sarà un caso? Io non credo. Bene. Adesso mandiamo la nostra sigla finale, che è sempre Greta Thunberg di Marrakesh. Ricordiamo che Radio ZM, quando non c'è un programma, la musica va avanti all'infinito senza interruzioni di pubblicità o altre minchiate varie. La cosa che potrebbe succedere è che magari nella rotazione parte una vecchia puntata di qualche programma, ma questo è soltanto per, diciamo, i fortunelli notturni che si beccano, non so, una puntata delle Ribelli che parte a caso. Figo. Quindi niente, ci sentiamo Greta Thunberg di Marrakesh e poi diamo il via alla selezione musicale della radio. Grazie mille Dave per la tua saggezza, incalzante spassosità e pillole di saggezza. Grazie di accogliermi. Niente, quindi ci risentiamo il prossimo mese, sempre l'ultimo mercoledì del mese, sempre verso le 7:30 di sera, sempre su Radio ZM. Boom. Io. Bella raga. Right here. Right now. Yeah. Right here. Sono un animalista, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala, prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, hey, dall'ultima festa in un bunker. Ehi, hey, chiamo tutti pure Greta Thunberg. Ehi, hey, dal tramonto di questo sistema. Ehi, hey, fino all'alba di una nuova era. Ho idea che per l'inquinamento fare la differenziata non sia abbastanza attenta, no? È come se per l'invecchiamento bevi la centrifugata con l'avocado e zenzero. Mi spiace che invece che al buco nello zono pensavo a campare che avevo i buchi. Tu con il mio ambiente per come i rappa noi sono un incosciente quindi da retta a lui. Hey. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare, cambiare. La mia razza si estingue. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare, ripartire. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Questa estinzione eclatante andrà un po' come tutte le altre. I ricchi andranno su Marte o su una stazione orbitante. I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno. Ai poveri forse non cambierebbe più di tanto. I gradi salzano e scende il livello, come ci stessimo avvicinando all'inferno. Il dramma è che scompariranno in tanti, ma finiremo poi per adattarci. Nascosta al buio come scarafaggi in un bunker, come ci diceva Greta Thunberg. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare, cambiare. La mia razza si